peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Ciao a tutti, sono Sandro Barone da Salpinaz. Oggi ascoltiamo due cose particolari, indubbiamente anche impegnative probabilmente. E la prima è un disco, l'ultimo uscito da Peter Evans. Peter Evans è piuttosto prolifico come musicista, però soprattutto in performance, come dire, nella collaborazione con altri, in definitiva, quindi come comprimario, e soprattutto quelle situazioni di confronto con musicisti per ricercare le proprie capacità di relazione con altri personaggi anche diversi come musicalità. In questo caso si tratta invece del suo gruppo, un gruppo al quale lui tiene particolarmente, è chiamato Bang and Becoming ed è al terzo lavoro che produce. È già 6 anni che si è costituito questa formazione, un quartetto. Quartetto formato da tromba, vibrafono e basso batteria e naturalmente elettronica che viene utilizzata un po' da tutti i musicisti. I personaggi più importanti sono naturalmente Peter Evans e poi Joel Ross al vibrafono. Poi si aggiungono due personaggi che francamente non conosco in altre formazioni, sono comunque gli stessi che lavorano nel quartetto già dall'inizio, insomma, Nick e Joss Biak al contrabbasso e sintetizzatore e Michael Swinkwoge Ode alla batteria, Dio solo sa come si pronuncia, ed è il terzo capitolo, diciamo, di questo gruppo. Si intitola Ars Ludicra e tutti anche i due precedenti hanno un po' una sorta di finalità condivisa e Peter Evans strutturate, si lascia poco al caso naturalmente in questi contesti, però la percezione è di un insieme che sia nell'improvvisazione che nella composizione si integrano perfettamente, soprattutto le capacità di Peter Evans con la sua tromba o piccolo trumpet o anche flicorno e Joel Ross sempre tra l'altro straordinario nella sua capacità di sostenere, di farsi notare senza invadere nessun campo altrui. È veramente un musicista prezioso e a mio avviso è sicuramente una delle cose più interessanti uscita quest'anno. E sentiamo, preso da questo Ars Ludicra, due composizioni. Il primo perlomeno è una lunga parte. Thank you. Questo era Peter Evans col suo quartetto, veramente prodigiosa la tromba di Peter Evans, questa capacità sia di intonazione che di precisione geometrica nella costruzione anche del fraseggio, anche nell'improvvisazione, veramente stupefacente la sua capacità tecnica, unita naturalmente a una musicalità profonda. E questo disco ultimo per Being and Becoming, il gruppo, il quartetto appunto di Peter Evans, nell'ultimo capitolo, perlomeno per ora, Ars Ludicra, uscito di recente per la More and More Records, naturalmente un'etichetta che non è molto frequentata. Passando al, diciamo, al capitolo poi più corposo, più lungo anche come brano musicale. E, si tratta di un lavoro di Barry Guy. Allora, il Barry Guy è un contrabbassista, compositore, musicista inglese di Londra, è del 47, quindi è più o meno a suoi 78 anni. È stato uno dei protagonisti, diciamo, di tutta la stagione dell'improvvisazione alla fine degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70 a Londra, collaborando con musicisti come Evan Parker, come molti altri, ma anche in contesti più diversi, però sempre è passato, perlomeno nei primi anni si muoveva tra la musica contemporanea, l'improvvisazione, queste sperimentazioni di improvvisazione collettiva, e quindi in una Londra molto creativa, e si è fatto sicuramente notare come un musicista di spessore. Poi appunto ha dato vita, era anche il contrabbassista della London, London Orchestra, e fonda sulla metà degli anni 70 una orchestra, la London Jazz Composer Orchestra, con la quale poi compone anche, scrive diversi lavori che vengono eseguiti e che probabilmente è stato anche il periodo più importante, questa l'esperienza con la London Jazz Composer. Uscì alla fine degli anni 80, nell'89, una composizione, diciamo che nel giro di 7-8 anni Barry Guy compose diverse grandi opere, grandi lavori orchestrali, molto impegnativi e ambiziosi, erano decisamente delle vere e proprie sinfonie, e appunto nell'89 esce quello che è da molti considerato come il suo capolavoro, un lavoro intitolato Harmos, appunto per orchestra, dove nell'orchestra partecipano un po' tutti i nomi più importanti degli inglesi e anche tedeschi, ci sono diversi anche della Globe Unity, ed è stato salutato con grande favore, un disco per la Intact. Già allora la Intact, questa etichetta svizzera, proponeva delle pagine importanti della storia della musica del Novecento, perché non è troppo limitativo parlare solo di jazz in questo caso. Allora, quest'anno, cioè nel 20, la London Jazz Composer si fa una tournée in Polonia, dove registra diversi concerti, sia come orchestra che come anche piccole formazioni, in duo, in quartetto, in trio, Arcadia, Alchemia, questo famoso locale di Varsavia, ecco, di Cracovia, naturalmente, le becco tutte, Alchemia è un locale nel quale sono state registrate moltissimi lavori importanti. Penso all'orchestra di Ken Vandermark, ad esempio. E appunto nel 20 viene registrato moltissimo materiale che viene pubblicato nel 22 in un cofanetto di 6 CD, quindi molto corposo e anche piuttosto difficile da distribuire, e anche diventa una testimonianza, diciamo, di quello che è la vitalità musicale di questi musicisti e soprattutto di Barry Guy. Quest'anno è uscito, di recente, nelle ultime settimane, è uscito però un disco singolo che raccoglie appunto questa composizione, Hermos, registrata dal vivo con una formazione naturalmente tutta diversa. Sono tutti musicisti che provengono un po' da varie parti. Molti di questi, almeno quelli che conosco, sono per lo più nordici, diciamo, svedesi e norvegesi. Un nome però che è decisamente più meridionale, e si tratta di Bruno Chevillon al contrabbasso, e poi sono molti altri, insomma. È una formazione un po' più piccola di quella che ha costituito la parte, diciamo, registrata a suo tempo nell'89, però è di grandissimo valore. Il risultato è decisamente importante, quindi vale la pena di ascoltarlo quasi per intero. Dico quasi perché in pratica ascolteremo, a parte l'incipit e il finale, ascolteremo tutta la sinfonia con una interruzione di 10 minuti, diciamo, più di passaggio, di fase di passaggio tra la prima parte, diciamo, e la seconda. E diciamo che questa forma orchestrale ha costituito anche un precedente nelle tecniche compositive per orchestra di quella che è stata l'esperienza nel free jazz, nella musica improvvisata, quindi dei canoni strutturali che hanno, dato il via ad altre esperienze, penso per esempio a Butch Morris o ad altre formazioni, in parte poi anche la parte più legata all'orchestra di Gil Evans, come Maria Schneider o altri. Però sostanzialmente qui ascoltiamo la struttura orchestrale della musica improvvisata, e in sostanza si muove su un canovaccio di improvvisazione libera con uno sfondo nel quale vengono articolate, in contrapposizione poi alla parte più improvvisata, dei temi piuttosto importanti, insomma, da un punto di vista lirico, strutturati, che fanno da sostegno alla parte improvvisata. Ascoltiamo questo magnifico Hermos, una composizione che si può definire una sinfonia, da parte di scritta e diretta da Barry Guy. Thank you. Thank you. Questo era il lavoro diciamo più importante di Barry Guy, Amos, con la London Jazz Composer Orchestra, appunto, che lui guida, e registrato appunto dal vivo a Cracovia, e finalmente è stato pubblicato come disco singolo, faceva parte di un cofanetto, un disco singolo registrato a Cracovia nel 20, ed è, che io sappia, l'unica diciamo esperienza di registrazione dal vivo fatta da di questo lavoro dell'89, quindi ormai un lavoro che ha già più di 30 anni, 36 anni, e quindi ben venga, diciamo che è un'ottima occasione per poterlo riascoltare anche in una forma leggermente diversa rispetto all'originale, per la differenza soprattutto dei musicisti che partecipano all'orchestra. È uscito per la Maya Recording, ed è, come peraltro un po' tutti i lavori registrati al Club Alchemia di Cracovia, e questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e le indicazioni discografiche le potete sentire nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.